il fotte di ste troie. Tutte queste paranoie. Nodo in gola non ne incoglie. No, nessuno me lo toglie. Nessuno, nessuna tranne te. Nessuno, nessuna tranne te. Che vieni da Marte ma stai qua per me. Un'opera d'arte sta in una degli. Cameriere porta un altro cabernet. Fresco in bello stile. Mi riempio di tossine. Ed ultimamente non ho fatto altro che soffrire. Cerco il lieto fine. Dormire con te sul letto di endorfine. Dio mi maledica se ti lascio sola. Se rifaccio quello stesso sbaglio, se ci casco ancora. Con te posso dire tutto stando zitto. Se ora stiamo insieme perché è stato scritto. Toglimi da questi guai, fammi stare bene. Promesse da marinai, sopra navi aliene. Verso un altro sole, questo non ci vuole. Baby andremo su Plutone, ho già acceso il motore. Non mi fotte di ste troie. Tutte queste paranoie. Nodo in gola non ne incoglie. Io con te una cosa sola. Devi andare non ancora. Resta un altro quarto d'ora. Però solamente te, la mia supernova. Baby con te posso dire tutto stando zitto. Siamo insieme perché è stato scritto. Io con te una cosa sola. Però solamente te, la mia supernova. La mia supernova. Sdraiato sopra la tua pelle bruna. Mi sento il primo uomo sulla luna. E provo un atterraggio di fortuna. Quando ritorno a casa luna e con i fatti miei. Sta stanza è una galassia buia quando non ci sei. Se a casa ci sto poco ora ne senti il vuoto. Cadi in picchiata tra le braccia miei Mayday. Astronauta con te supernova. Con le altre figlio di puttana con te superlova. Con te che sei insicura e credi alla fortuna. E non so perché sei superstiziosa. Non sei la super caso, quindi sei giù per casa. Abbiamo visto spegnersi le stelle attorno a noi. Ma questi buchi neri non ci inghiottiranno mai. Anche se non ti vedo quando non c'è luce. Sento l'eco del tuo battito a distanza di anni luce. Io e te complici della stessa materia. Chiediamo il meglio di noi quando viene sera. In un letto che assomiglia all'universo con te al centro. Nessuno può dividerci come lo spazio e il tempo. No. Io con te una cosa sola. Devi andare non ancora. Resta un altro quarto d'ora. Però solamente te, la mia supernova. Baby con te posso dire tutto stando zitto. Siamo insieme perché è stato scritto. Io con te una cosa sola. Però solamente te, la mia supernova.